17 novembre 2005. Alle 9, Maria Patrizia Favero chiama l'ospedale psichiatrico giudiziario OPG di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove è ricoverata sua figlia. Vuole parlare con l'assistente sociale perché ha bisogno di alcuni documenti, ma nelle prime due telefonate le viene detto che l'assistente sociale non è ancora arrivato. Tra le 11.30 e mezzogiorno telefona per la terza volta. Le viene passato un medico. Signora, sua figlia ha fatto una birichinata, Questa volta l'ha combinata proprio grossa. Cos'è successo? Beh, si faccia coraggio, signora. Sua figlia è morta, si è suicidata ieri sera. Un passo indietro, 2002. Catiuscia Favero si trova rinchiusa nell'OPG di Castiglione delle Stiviere. È stata condannata per il furto di un orologio, ma viene ritenuta non idonea al carcere, destinata quindi all'OPG. Qui denuncia un medico per molestie e due infermieri per violenza sessuale. Il giorno successivo alla denuncia, due medici dimettono la paziente, determinandone così il ritorno nel carcere di Genova, Ponte Decimo. Questa è la motivazione. La Favero non presenta significative alterazioni psichiche, tali da giustificare la sua presenza nella struttura. In carcere, la Favero incontra la ginecologa, senza però farsi visitare. È troppo forte il dolore all'apparato genitale. Un dolore così intenso da non permetterle di stare seduta. 20 giorni dopo le viene proposta una seconda visita e questa volta Catiuscia acconsente. Nonostante siano passati molti giorni, la ginecologa evidenzia una fessurizzazione in corrispondenza dell'orifizio vaginale esterno ore 6, abrasioni, lesioni interne. Ma il certificato sarà dichiarato disperso e il fascicolo aperto in seguito alla denuncia della Favero viene archiviato. Uno dei due infermieri verrà trasferito in un'altra struttura. Gli altri indagati manterranno il loro posto di lavoro all'interno del reparto Morelli dell'OPG di Castiglione delle Stiviere. 3 anni dopo, quando la pena detentiva inflitta a Catiuscia sarà terminata, la donna verrà dichiarata pericolosa per se stessa e per gli altri e le verrà imposto nuovamente un periodo di osservazione in un ospedale psichiatrico giudiziario. Dunque, Catiuscia Favero, scontata la pena in carcere, quando avrebbe potuto intraprendere un percorso di integrazione familiare accanto a sua madre e a sua figlia Giuliana, viene collocata nello stesso istituto dove anni prima aveva denunciato di aver subito molestie e violenze sessuali, nonostante le indagini per accertare lo svolgimento di quei fatti fossero ancora in corso. Da lì racconta a sua madre quello che le accade. Trascorre quasi l'intero periodo legata a un letto di contenzione, anche per i più futili motivi: per aver utilizzato una scheda telefonica non sua, per aver bevuto caffè, Coca-Cola, magari per aver mangiato una caramella. Il letto di contenzione è una struttura in ferro pesante a cui si viene legati mani e piedi, un buco al centro da cui defecare e urinare in un secchio. Se ti agiti e provi a liberarti, i legacci ti feriscono ai polsi, alle caviglie. In genere non ti slegano per mangiare, devi aspettare che qualcuno ti imbocchi e che trovi il tempo di darti da bere. Se ti punge un insetto, ti prude la testa, devi solo stringere i denti e sperare che ti passi in fretta. In una telefonata Catiuscia racconta alla madre di essere stata legata a uno di quei letti per 20 giorni. La donna dovrebbe uscire da Castiglione dello Stiviere il 28 novembre 2005. Il 16 novembre la madre riceve una telefonata allarmata. All'inizio la conversazione sembra essere come tante, le classiche cose che possono dirsi una madre e una figlia costrette a vivere lontane: un saluto, due chiacchiere, le solite richieste pratiche, qualche soldo sul conto, perché non ha più, abiti, cibo, altre cose. Poi, d'un tratto, la sua voce diventa flebile, quasi sussurrata. Quello che sta per dire non lo deve sentire nessuno. Mamma, portami via di qui. Aiutami, io non ce la faccio più, ho paura. Stanno succedendo cose strane. Patrizia prova a rassicurarla, a tranquillizzarla come può. Le ricorda che da lì a 3 giorni sarebbe andata a trovarla e le consiglia nel frattempo di stare sempre vicino a qualcuno, di non rimanere mai sola. Saranno le ultime parole che Patrizia potrà dire a sua figlia. Catiuscia Favero morirà la stessa sera. Il suo corpo verrà ritrovato nel cortile dell'OPG di notte. Il collo dentro un cappio ricavato da un lenzuolo bagnato. Il lenzuolo legato ad una grata malferma e precaria. Sua madre non viene avvertita. Perché? Perché non viene avvisata nemmeno alle 9 di quella stessa mattina, quando è lei a telefonare all'OPG? La madre non crede un solo istante e mai crederà al suicidio della figlia. percorre in macchina i quasi 400 chilometri che la separano da casa sua in provincia di Savona a Castiglione delle Stiviere. Va prima all'OPG, poi in una stazione dei carabinieri lì vicino per denunciare l'accaduto. Un maresciallo prova insistentemente a farla desistere dal richiedere l'autopsia. Le dicono che il pubblico ministero non vuole disporla e che va bene così, dato che il medico di guardia, lo stesso denunciato nel 2002 per molestie, non ritiene necessario l'esame autoptico, in quanto la morte è da imputarti a diastasi, articolazione atlante, epistrofea o soffocamento tempicale, rottura praticamente dell'osso del collo. Questa ipotesi però non verrà confermata dal medico incaricato di effettuare l'esame autoptico, che indica quale causa della morte: impiccagione semicompleta con soffocamento derivato da aspirazione di materiale gastrico dalle vie aeree. Patrizia Favero, dopo aver incontrato numerose resistenze per riuscire a far eseguire l'autopsia, va di persona alla procura di Mantova e deposita un esposto. Qui scopre che il pubblico ministero non era a conoscenza in alcun modo dei suoi dubbi circa il suicidio, così come delle richieste di effettuare indagini più approfondite. La Favero apprende anche che nessuna rilevazione è stata effettuata sul luogo della morte. Il lenzuolo con cui si sarebbe impiccata Katiuscia non è stato sequestrato, che non è stato fatto alcun sopralluogo nella sua camera. La stanza è stata subito imbiancata, nonostante fosse stata ritinteggiata di recente e completamente svuotata di tutto, compresi i diari personali di Katiuscia, che sono stati sì successivamente riconsegnati, ma privi di pagine, palesemente strappate. Come ha fatto la Favero di sera, con un lenzuolo bagnato in mano, a fare il percorso dalla sua stanza fino al cortile senza che nessuno la notasse? Siamo in novembre, fa freddo, il giardino non è illuminato. Nei pantaloni della tuta che indossava è stata trovata una lametta. La madre si chiede: perché non è stata quella per uccidersi? Dormiva in una stanza singola, aveva la possibilità di chiudersi in camera con la chiave e qui trovare il modo di togliersi la vita. Come mai ha deciso di uscire fuori? Lei, che aveva paura del buio, che non sopportava il freddo. Quando Patrizia ha visto il corpo esanime, ha notato alcuni particolari. Intorno al collo si vedeva chiaramente un segno molto sottile, quello che può lasciare una corda più che un lenzuolo. Dietro la testa una ferita lacero contusa che nessuno ha saputo spiegare, e nel braccio il segno di una puntura. Possibile che le siano stati somministrati barbiturici in quantità tale da provocarne l'incoscienza? È successo più volte, racconta la madre, che Katiuscia le consegnasse dei farmaci somministrateli in dosi elevate che lei non intendeva assumere. Nel suo sangue, comunque, sono stati rinvenuti dosaggi molto forti di barbiturici, tanto da far pensare ad una massiccia somministrazione avvenuta in un unico momento. Anche le condizioni dei vestiti che indossava al momento della morte sollevano dubbi. La notte era umida, sul terreno erba e fango, e i suoi pantaloni, nella zona dei glutei e delle cosce, erano striati di verde e sporchi di terriccio. Le scarpe, invece, no. Le suole, completamente pulite. Ancora, la rete a cui è stata trovata impiccata ad altezza d'uomo non aveva le maglie abbastanza larghe. Possibile che Katiuscia sia riuscita addirittura a farvi passare attraverso un lenzuolo? Ulteriore capitolo, l'autopsia. La salma è stata conservata in una cella frigorifera. E dopo l'esame, il medico incaricato ha dichiarato impossibile stabilire l'ora del decesso ed effettuare alcuni esami a causa dell'avanzato stato di congelamento della salma. Ad integrazione delle analisi sono state richieste esami sotto unguinali per rinvenire eventuali tracce biologiche utili all'indagine. A quanto pare i campioni vengono prelevati da alcuni carabinieri del Rono di Mantova, ma da quel momento quei reperti sono spariti. Il PM che per primo si è occupato del procedimento aperto per omicidio volontario e che aveva richiesto l'autopsia e il sequestro dei reperti è stato trasferito. Il suo successore si è limitato a rigettare le richieste per motivi di nuovi esami clinici e le integrazioni di prove, concludendo per l'archiviazione. Su richiesta di Patrizia Favero, la Procura Generale di Brescia avoca le indagini e a conclusione delle stesse emerge una responsabilità in capo al medico di turno quella notte, lo stesso indagato anni prima per molestie. A lui, indagato per omicidio colposo, si contesta di non aver messo in atto gli interventi necessari per impedire la morte della Favero, soprattutto perché, a detta delle altre pazienti, la donna aveva manifestato profondo malessere. Nel corso dell'udienza preliminare viene emessa sentenza di non luogo a procedere. Perché? Nei confronti del medico perché? Perché le accuse a suo carico non sono rilevanti, perché le dichiarazioni delle altre pazienti non sono attendibili per via del loro stato di infermità mentale. Il suo rapporto con la Favero è compromesso per via della precedente denuncia, non gli avrebbe permesso comunque di intervenire. L'assicurazione dell'ospedale ha offerto a Patrizia e Giuliana 15.000 euro come risarcimento danni, che loro hanno rifiutato. Il processo civile, apertosi a febbraio 2011, è la sola opportunità rimasta per non far calare un silenzio definitivo su quella morte. Chi è entrato nella sua stanza dall'OPG di Castiglione dello Stiviere per cancellare le tracce della sua vita terrena, distruggere i suoi effetti personali e strappare le pagine del suo diario, è riuscito quasi a rimuovere completamente la memoria di Katiuscia. Restano soltanto il dolore della mamma Patrizia, della figlia Giuliana e quelle scarpe da tennis, incredibilmente pulite.